Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera mi rivolgo a un segmento particolare dei nostri ascoltatori, probabilmente un segmento dove ci sono tanti lettori. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è. Spalle al muro di Mariella Nava, cantata da Renato Zero, ci introduce a questo segmento. Sì, le persone anziane, quelle non più giovanissime, quelle che fanno parte della cosiddetta quarta età. Gli ottantenni che magari oggi godono di condizioni di vita impensabili fino a pochi anni fa, condizioni di vita che permettono loro di sentirsi attivi e partecipi. E di questi spesso ultra ottantenni, e se non addirittura novantenni, ne ha incontrati diversi lo psicoanalista Massimo Ammaniti, che ha scritto La curiosità. Curiosità non invecchia, elogio della quarta età, pubblicato da Mondadori, 144 pagine, 17 euro. Dopo aver realizzato tra l'altro una trasmissione televisiva intitolata appunto La quarta età, Ammaniti ha proseguito nell'approfondire il tema e ci offre qui alcune riflessioni adatte agli ultra ottantenni per sentirsi giovani, ma anche a tutti noi in fondo, per apprezzare appunto il ruolo degli anziani, grazie anche a alcuni incontri, alcune interviste con alcuni grandi vecchi. Troviamo per esempio Raffaele La Capria, Camilleri, Licia Vlad, Mario Pirani e tanti altri che ci insegnano a invecchiare senza sentirci esclusi o reietti. E di questo parliamo adesso con l'autore. Buonasera Massimo Ammaniti. Buonasera. Massimo Ammaniti, la tesi del suo libro dunque è che curiosità e vecchiaia non si elidono a vicenda. Sì, direi di sì. Infatti il titolo del libro è appunto La curiosità non invecchia. E nel corso del libro il tema della curiosità riemerge ripetutamente. Ossia, io credo che forse bisogna uscire fuori dai luoghi comuni, dagli stereotipi che considerano la vecchiaia come una fase conclusiva della vita, una specie di anticamera della morte. Io ho anche intervistato una serie di personaggi proprio per documentare tutto questo, ossia sono persone che si avvicinano ai 90 anni, addirittura li superano, però continuano ad avere un interesse per la vita, si guardano intorno, ma soprattutto la curiosità non è soltanto diretta all'esterno per i fatti della vita quotidiana, è anche una curiosità, possiamo dire, un po' di conoscersi meglio, nel senso che è una fase in cui uno comincia a tirare i fili della propria vita. E lei fa un'osservazione interessante nelle prime pagine del suo libro, cioè ricorda come in questa fase della vita, la quarta età possiamo chiamarla, si manifestano delle trasformazioni che non sono meno significative di quelle che si manifestano da giovani, avvengono importanti trasformazioni, lei scrive, sicuramente meno eclatanti di quelle tipiche dell'età giovanile, ma altrettanto profonde. Non c'è dubbio, ossia io qui poi mi riferisco sul piano psicoanalitico al contributo di Erik Erikson, che è stato un grande psicoanalista americano, il quale ha parlato del ciclo vitale, ossia secondo cui appunto la vita è fatta di una serie di fasi in cui avvengono, ci sono come delle contrapposizioni, delle tensioni, da cui però scaturisce, come dice Erikson, quello che è la virtù, possiamo dire, la ricchezza che porta ogni fase della vita. E pensando alla vecchiaia, i due poli sono la disperazione da una parte, se la persona avanti negli anni rinuncia alla vita, si ripiega su se stesso, è pieno di risentimenti, non accetta la vecchiaia, e dall'altra invece è la saggezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire cominciare a guardare la vita, la propria esperienza, anche con un certo distacco. E credo che questo è un punto importante, e credo che va aggiunto anche quello che ha scritto Hillman, secondo cui il carattere di una persona non è che matura, come si è sempre pensato, alla fine dell'adolescenza o nell'età giovanile, ma matura in vecchiaia. È come se fosse una specie, potremmo dire, di frutto tardivo, ossia vengono fuori le proprie attitudini e quello che spesso si verifica, anche una sorta di riconciliazione con se stesso e con la vita. Quando parla del desiderio, lei riprende questi temi che ha accennato, per esempio sottolinea l'importanza di raccogliere e elaborare i ricordi, di ricostruire il senso della propria vita, un'esigenza che si scontra con il timore invece di una resa dei conti con se stessi. E come si può affrontare questo conflitto? Ma io credo appunto che proprio come uno dei compiti di questa fase è anche di riconoscere il desiderio. Spesso noi, quando siamo molto inseriti, diciamo, nella vita, la viviamo, possiamo dire, in marcia diretta, in presa diretta, senza renderci conto più di tanto. Invece, quando si è avanti con gli anni, uno può ricostruire il proprio percorso e anche riuscire a trovare, possiamo dire, quel filo che ha unito un po' le varie fasi della vita. Io qui riprenderei anche il film recente di Sorrentino, Youth, in cui c'è come una specie di tesi analoga. Finché uno è giovane non si rende conto di essere giovane, ma la gioventù uno la può rivedere quando si è avanti con gli anni. Allora, io credo che questo rappresenta un processo importante, quando, possiamo dire, i rumori della vita quotidiana in qualche modo vengono meno e uno ha più spazio per se stesso, forse può ricostruire questo processo. Luciana Castellini, in questo libro da lei intervistata, annuncia addirittura alla fresca età di 88 anni di voler fondare un nuovo partito della sinistra a proposito di progetti per il futuro, quindi la progettualità non si abbandona, non diminuisce. Sì, devo dire, tra l'altro una delle persone che ho intervistato è stato La Capria, e La Capria quando aveva 80 anni ha avuto... I suoi scritti sono stati raccolti in un meridiano, però e sembrava che questo fosse conclusivo, i due volumi conclusivi degli 80 anni di La Capria. In realtà lui dagli 80 ai 90 ha continuato a scrivere romanzi, saggi, articoli e così via, per cui a 90 anni hanno dovuto fare una nuova edizione dei meridiani per raccogliere i suoi scritti. Per cui credo che quello che è importante è continuare come ad avere dei progetti. Naturalmente non sono progetti giovanili o dell'età di mezzo, sono dei progetti che prendono corpo in questa fase e naturalmente tengono anche presente quelle che sono le limitazioni, a volte anche le gravi limitazioni che si hanno in questa età, però è importante continuare a guardare l'orizzonte. Naturalmente non è un orizzonte lontano, ma è un orizzonte ravvicinato. Un altro che continua a scrivere è Andrea Camilleri, anch'egli da lei intervistato, sì, il quale ci insegna a non avere rimpianti invece. Sì, perché uno dei temi importanti in questa fase, se uno è troppo gravato dai rimpianti, dai risentimenti, da quello che non è riuscito a realizzare, allora questo ci riporta al passato con insoddisfazione, con rancore, con dispiacere, con senso di delusione. E questo è uno dei temi che poi naturalmente non solo vale in vecchiaia, ma vale anche prima. E è fondamentale che uno sia in grado come di riconciliarsi col proprio passato, perché questo consente poi di vivere nel presente, perché i risentimenti e i rimpianti ci riportano al passato e non ci consentono di staccarci dal passato. Quindi possiamo concludere che questo suo libro rottama la rottamazione? Direi di sì. Io sono naturalmente contrario alla rottamazione. Può andare bene per le macchine, ma non va bene per le persone. Tra l'altro non dimentichiamo che la storia umana in realtà è stata, come viene detto da un filosofo della scienza, Sterelny, australiano, il quale dice che noi abbiamo un apprendimento evoluto, il che vuol dire che le vecchie generazioni nel tempo trasmettono alle nuove tutto quello che hanno accumulato, e diciamo questa capacità di trasmissione attraverso le generazioni è quello che ci ha consentito di raggiungere poi una civiltà, di costruire un mondo sociale e così via. Per cui nulla, mettiamo da parte la rottamazione e invece sosteniamo la continuità e la trasmissione fra le generazioni. Grazie a Massimo Ammaniti, autore de La curiosità non invecchia. Buona serata. Arrivederci, grazie. Una signora che vuole invecchiare a suo modo è Joy Bergman, la protagonista del libro di Kathleen Shine, ormai molto popolare anche in Italia. Il libro si intitola Le cose cambiano, è pubblicato ancora da Mondadori, 298 pagine, 19,50, ed è tradotto da Stefano Bortolussi. Joy è la matriarca ormai tempata di un grande clan della buona borghesia newyorkese che perde il marito ed è catapultata in una situazione del tutto inaspettata. La sua reazione sarà proprio quella di non arrendersi e di sforzarsi, anche nell'incredulità dei figli, di costruirsi una nuova vita nella quale ci può essere posto anche per un'antica fiamma del liceo che trova posto accanto a Joy, la quale rimane fedele alla regola: ciascuno affronta il lutto a modo suo, alcuni regrediscono. Tutto qui. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un altro romanzo di ambientazione senile è quello di una scrittrice francese, Virginie Grimaldi, curatrice di un blog che è molto seguito nel suo paese. Il libro si intitola Quando sarai più grande capirai, è pubblicato da Mondadori, tradotto da Francesca Novaira, 998 pagine, 19 euro. Questo è un libro pieno di humor e umanità per raccontare la vicenda di Giulia, che è stata improvvisamente colpita da un lutto, la scomparsa prima del papà e poi della nonna, e l'amore per Mark vacilla in quella fase, e allora Giulia decide, per una scelta traumatica e sorprendente, si trasferisce per un anno sabbatico di lavoro come psicologa nel residence per anziani della sua città di origine, che è Biarritz. La comunità si rivela più bizzarra e vivace di quanto non prevedesse e soprattutto è capace di trasmettere un enorme patrimonio di saggezza e conoscenza, come testimonia il discorsetto di un ospite che festeggia i suoi 99 anni. Il vecchio si alza e si schiarisce la gola. Il suo corpo trema d'emozione. Un fragile castello di carta che rischia di crollare. Ma quando la figlia gli fa segno di sedersi, lui la ignora. Ci tiene a restare in piedi. Ieri sera sono andato a dormire e avevo 20 anni. Oggi mi sveglio e ne ho 99. Anche quando è lunga la vita sembra breve. Da bambino mia nonna, che mi sembrava vecchissima ed era molto più giovane di me adesso, mi ripeteva sempre: «La vita è breve, ragazzo mio, e ne abbiamo solo una. Dobbiamo dedicare tempo solo alle cose che ne valgono veramente la pena». Per tutta la vita ho custodito quel consiglio come un tesoro. Noi non abbiamo abbastanza tempo per onorare come si deve tutto quello che la riempie. Dobbiamo scegliere a cosa dare la priorità. Al lavoro? O all'amore, ai miei figli o ai miei hobby, alla lettura o alla pesca. Cosa valeva veramente la pena? Alcune risposte sono ovvie, altre lo sono meno. Ho commesso degli errori, è inevitabile, ma ho sempre cercato di dare ascolto al cuore più che alla ragione. Si interrompe e beve un sorso d'acqua. Tutti lo ascoltano come se lo sentissero per la prima volta. Regolarmente nel corso della mia vita mi sono chiesto se sarei stato soddisfatto se fosse finita in quel momento. È questo il segreto. chiedersi se il bambino che siamo stati sarebbe fiero di noi. Un 86enne in gran forma è Tom Wolfe, notissimo autore americano, l'autore di grandi libri di grande successo, tipo Il falò delle vanità, famoso anche per il suo abbigliamento molto dandy. L'anno scorso Wolfe ha pubblicato un brillantissimo pamphlet, Il regno della parola, pubblicato da Giunti, 190 pagine, 18 euro, ed è tradotto da Irene Annoni. Qui Wolfe affronta e in parte demolisce due mostri sacri, Charles Darwin, l'autore dell'evoluzionismo, e Noam Chomsky, linguista di fama internazionale, nonché espressione del più puro pensiero progressista americano. Che cosa accomuna queste due figure lontane nel tempo? Il fatto che, secondo Wolfe, Darwin, nella teoria dell'evoluzione, lasciò aperto un punto debole, ossia la mancanza di spiegazione del perché, nonostante l'evoluzione, l'uomo soltanto parli. Non c'è nessuna traccia, infatti, negli stadi precedenti all'uomo, di un qualche cosa che possa essere paragonato, che possa anticipare il linguaggio. Darwin, per la verità, aveva colto questa debolezza della sua teoria e aveva anzi ritardato a pubblicare il proprio studio proprio per evitare che si aprisse un dibattito sul tema. Poi aveva rischiato di essere battuto sul tempo da un altro studioso, un naturalista autodidatta che aveva studiato flora e fauna di una sperduta isoletta vicino all'equatore, e quindi aveva deciso di pubblicare il libro per battere appunto la concorrenza di Alfred Wallace, che aveva avuto un'intuizione simile alla sua. La lobby accademica appoggiò fin dall'inizio Darwin, che diventò un simbolo di una vera e propria rivoluzione del pensiero, scrive Wolfe. Ai vertici della società come dell'accademia, credere o meno nella rivoluzionaria scoperta di Darwin diventò un elemento di discriminazione sociale. L'adesione al darwinismo dimostrava l'appartenenza a una minoranza illuminata che splendeva ben più in alto delle torme belanti che la respingevano. Wallace però aveva notato che, spiacente, scrive Wolfe, esiste un discrimine sostanziale tra animali e uomo, e qui appunto c'entrava il linguaggio. Il linguaggio, in tutte le sue forme, scrive l'autore, faceva progredire l'uomo ben oltre i confini della selezione naturale. Darwin rispose facendo riferimento a un'evoluzione del linguaggio dal canto degli uccelli durante la stagione dell'accoppiamento, e qui entra in scena un secolo dopo Chomsky, linguista, come dicevo prima, accademico, intellettuale, potente, acclamato, per il quale il linguaggio non è che l'evoluzione di una lingua universale, di una grammatica universale innata nell'uomo, di cui ogni singolo linguaggio sarebbe una variante. Chomsky, con la sua autorevolezza, rende pacifica questa tesi, finché anche lui si imbatte in un guastafeste. Uno studioso sconosciuto, Daniel Everett, che in un dotto studio del 2005, ricavato da approfonditi studi presso una minuscola e isolatissima tribù amazzonica, concluse che non esiste alcuna grammatica universale. Apriti cielo, tutto l'ambiente accademico si schierò a favore di Chomsky, ma senza riuscire a smontare la tesi di Everett, che in quella in qualche modo minava la stessa teoria dell'evoluzione di Darwin, perché riportava la questione al punto di partenza, ossia che non c'è nessun salto che spieghi la peculiarità unica nell'uomo del linguaggio. Quella di Everett era un colpo mortale alla sicumera di molti studiosi, come spiegano queste righe. Everett non conosceva il filosofo Andy Clark o il suo lavoro, eppure è arrivato alla stessa intuizione per suo conto. Il linguaggio è il grande strumento culturale, come lo stesso Everett lo ha definito. Egli non aveva mai dato segni di dubitare della teoria dell'evoluzione. Perché avrebbe dovuto? Ma il parlare, il linguaggio, era qualcosa che esisteva a prescindere dall'evoluzione. Non aveva nulla a che vederci. L'uomo senza alcun aiuto, aveva creato il linguaggio. Il salto di Everett oltre il muro che Darwin aveva costruito intorno all'evoluzione, e cioè la convinzione che la teoria evolutiva fosse anche una teoria del tutto, è stato un gesto che pressoché nessun evoluzionista aveva mai neanche solo concepito. Nel 2014 l'evoluzione era ormai ben più di una teoria. Era integrata nell'anatomia, nel sistema nervoso centrale di ogni individuo moderno. Ogni parte, ogni tendenza di ogni creatura vivente si era evoluta da una qualche forma preesistente, quando anche si fosse dovuti risalire alle 4 o 5 cellule di Darwin per trovarla. Un titolo come Il mistero dell'evoluzione del linguaggio era istintivo, che un tratto dell'importanza del linguaggio si fosse evoluto da qualcosa, andava da sé. La nozione di Everett, secondo cui il parlare non si era evoluto da niente, ma era uno strumento culturale che l'uomo aveva realizzato per sé, era inconcepibile per la vasta maggioranza degli individui moderni. Erano rimasti a mollo così a lungo nella teoria che ai loro occhi chiunque avanzasse il minimo dubbio in materia doveva credere ancora che la terra fosse piatta o avere la mentalità di un pastore metodista. E Darwin troviamo nel libro di due studiosi americani, Bill Messler e James Cleaves, Breve storia della creazione, la ricerca delle origini della vita, è pubblicato da Bollati Boringhieri, 374 pagine, 24 euro, tradotto da Allegra Panini. I due autori qui affrontano una delle pagine più affascinanti della ricerca scientifica, avvertendo comunque che la scienza è parte integrante del nostro mondo con tutte le illusioni e gli errori umani. Oggi siamo portati a considerare quella dell'evoluzione come una storia lineare che segue una chiara direzione e sbocca nella scoperta di Darwin dell'evoluzione. In realtà molte deviazioni, spiegano gli autori, sono avvenute, molte svolte che oggi ci permettono di dire che davvero non sappiamo come ha avuto inizio la vita. Nessuno era lì per testimoniare che cosa è accaduto e la documentazione geologica di quel tempo è stata quasi del tutto cancellata da miliardi di anni di trasformazioni interrotte. Sappiamo per certo che almeno 3 miliardi e mezzo di anni fa un organismo unicellulare è comparso su una terra ancora sterile. Non possiamo dire come ci sia arrivato, ma possiamo ipotizzare che sia derivato da materia non vivente. E a proposito di animali che hanno fatto carriera, sentiamo adesso queste note. Lezioni di Nirvana, c'è Mutter in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Naturalmente Francesco Gabbani che canta Occidentali Scarma sui versi di Fabio Ilacqua, versi che appunto ci presentano e ci ricordano la famosa scimmia nuda, il riferimento a un libro che ebbe un grande successo di Desmond Morris, che è pubblicato da Bompiani, ricordo, 12 euro, 270 pagine, tradotto da Merisa Bergami. Di Morris esce adesso un altro libro pubblicato da Mondadori, e questo è una raccolta di brevissimi testi che raccontano dei suoi innumerevoli rapporti con gli animali, o come dice lo stesso Morris, della gioia di osservare il mondo. Il libro si intitola Un cervo in metropolitana e altre storie della mia vita con gli animali, 638 pagine, 24 euro, tradotto da Laura Serra. E anche Morris ci spinge a mantenerci curiosi per rimanere al tema dal quale siamo partiti questa settimana. Infatti scrive: è vero che invecchiando si tende a sviluppare una certa rigidità mentale, una visione stereotipata delle cose e un atteggiamento ingessato, ma anche se non è possibile sconfiggere la degenerazione fisica e rimanere giovani nel corpo, si può fare molto per restare giovani nella mente. Il segreto è non smettere mai di fare domande, di esplorare nuovi luoghi o nuove idee. E qui una testimonianza appassionante di questa curiosità che Morris ha esercitato sul tema della scienza e della zoologia. Con le scimmie, per esempio, organizzò una mostra di dipinti fatti appunto da scimmie, che Morris volle tenere in una galleria autentica e che riuscì a fare aprire all'Institute of Contemporary Arts di Londra, una prestigiosissima istituzione artistica. E quella mostra ebbe tra l'altro un enorme successo commerciale. E infatti Morris si chiede: la dignità umana era insidiata dal successo pittorico di una scimmia? Che lo fosse. Se l'uomo e la scimmia erano comunati dall'interesse per l'impulso estetico, tanto meglio. La nostra dignità di fronte al resto del mondo animale ne era un poco sminuita? E allora? E poi troviamo tanti altri animali, compreso una cornacchia capace di parlare, per tornare al tema pure di cui abbiamo parlato, di parlare un raffinato accento di Oxford. E a questo punto... Il confettino. A proposito di uccelli parlanti, troviamo un pappagallo parlante in una favola iraniana, Il mercante e il pappagallo di Rumi, illustrato da Feroze Golmohammadi, pubblicato da Valentina Edizioni, 12,90 euro, in cui un pappagallo dà lezione, oltre che di linguaggio, di astuzia e di libertà. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Paolo Colleoni, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, librochiocciola24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.